Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal 2012 cerca di ispirare a vivere, pensare e agire senza crudeltà. Siamo arrivati alla puntata numero 481, nella quale parleremo di lupi, facciamo un po' di chiarezza sulla notizia del sì del Viminale agli abbattimenti, della manifestazione da Guinness dei primati a Pechino per sensibilizzare sulle adozioni degli animali domestici, di arte e biocentrismo, e naturalmente non mancherà una riflessione sulla Pasqua. Il tutto condito da una scaletta musicale tutta da scoprire. Speriamo di avervi incuriositi. Apriamo la nostra puntata cercando di fare un po' di chiarezza sulla notizia che ha fatto tremare chi ha a cuore la sorte dei lupi italiani. Il casus belli nasce da una circolare firmata dal Ministero dell'Interno Salvini alcuni giorni fa, in cui si autorizzava l'abbattimento dei lupi, circolare accolta con gioia dal governatore del Trentino, che considera da sempre gli abbattimenti la soluzione per evitare che gli esemplari pericolosi attacchino l'uomo. Il tutto succede appena dopo l'approvazione del nuovo piano di conservazione e gestione del lupo, trasmesso dal ministro dell'Ambiente Costa alle regioni, in cui venivano definitivamente cancellate le uccisioni previste sia per lupi che per gli ibridi e cani vaganti, previste nelle diverse versioni presentate dal precedente ministro Galletti tra il 2015 e il 2017. Fortunatamente, come si legge nel comunicato stampa della Lega Antivivisezione, la circolare firmata dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno non prevede alcuna possibilità di uccidere i lupi e non dice nulla di più di quello che già si sapeva dal 1997. Anzi, viene ribadito che ci si deve impegnare nelle misure di prevenzione incruente proprio come scritto nel piano lupo del Ministero dell'Ambiente. Insomma, la circolare dunque richiesta con forza dal presidente trentino Fugatti sarebbe stato solo un atto formale, privo di contenuti che non siano già riportati nelle norme nazionali, un documento che avrebbe l'unico obiettivo di sfruttare gli animali per fini politici. Per fortuna per ora i lupi sono al sicuro. We were. Quando si parla di Cina e di cani, la maggior parte delle persone con ogni probabilità pensa immediatamente al mercato della carne di cane e alle terribili gabbie in cui vengono stipati. Fortunatamente c'è anche un'altra Cina che va in tutt'altra direzione, cercando di sensibilizzare sulle adozioni e gli abbandoni degli animali domestici. Questo avviene ormai da 5 anni grazie al China Simultaneous Adoption Day. L'ultima edizione si è tenuta lo scorso weekend in ben 51 città cinesi, con una popolazione totale di 400 milioni di persone. L'evento è stato trasmesso in diretta sui social media, ha attirato milioni di visualizzazioni da tutto il paese asiatico e attori e artisti hanno dato il proprio appoggio all'evento, elogiando il salvataggio di questi animali. Secondo alcuni, considerata la dimensione del territorio cinese e la sua densità demografica, si è trattato di una manifestazione senza precedenti su scala globale. Abbiamo fatto domanda al Guinness dei primati per il titolo di più grande giornata per l'adozione di animali randagi del mondo, ha confermato Yang, cofondatrice e coordinatrice della manifestazione di beneficenza. La Pasqua vegana salva un agnello? È il titolo della puntata che è andata in onda giorni fa a Porta a Porta su Rai 1. Come spesso accade quando si portano in televisione tematiche animaliste, gli organizzatori pare facciano proprio di tutto per mettere in svantaggio gli ospiti che parteggiano per la causa animalista o per ridicolizzare il dibattito. Sulla scia di quest'ultimo intervento, la Lega Antivivisezione ha lanciato un appello al presidente della Rai, Marcello Foa, e ai direttori delle reti Rai per un'informazione più equilibrata in tema di allevamenti e scelte alimentari. L'AV sottolinea in particolare come gli spazi di approfondimento in materia di clima, allevamenti e scelte alimentari meriterebbero maggiore valorizzazione e invece sono spesso trasmessi a notte fonda o con dibattiti non sempre bilanciati in termini di voci esperte. Al di là dei dibattiti nei salotti TV, la Pasqua resta comunque un periodo dell'anno particolarmente violento e crudele, a causa della tradizione che in qualche modo impone un massacro di massa di cuccioli. Parallelamente è anche un'occasione per riflettere sui propri e altrui comportamenti, sulle relazioni che gli umani hanno con gli altri animali e sulla società in cui viviamo. A questo proposito vi riproponiamo la riflessione di Luigi Lombardi Vallauri. Per me, come per ogni cristiano, Pasqua è stata la festa della risurrezione, del trionfo della vita sulla morte. Se Gesù fosse stato soltanto un crocifisso, sarebbe rimasto un bravo rabbi. Niente cristianesimo, lo dice chiaramente San Paolo. Ma se si mangiano agnelli e non maiali a Pasqua, è perché in base alla risurrezione, Gesù crocifisso è stato mitizzato come agnello di Dio. Agnello sacrificale, nel senso ebraico, auto-offertosi a Dio per salvare l'umanità perduta nel peccato. Solo un risorto poteva essere niente meno che un Agnus Dei. La risurrezione è stata il problema passione della mia vita da giovane. Solo se Gesù era risorto, risorgevamo anche noi, e con noi, nella nostra memoria di risorti, si salvava per sempre il mondo. Se invece Gesù non era risorto, tutta la storia umana finiva inghiottita nel nulla, nel non essere, nella morte. Certo, c'era il problema dei risorti non per il paradiso ma per l'inferno, il problema dei dannati. Ma io lo rimuovevo, pensavo automaticamente, sempre con San Paolo, a una risurrezione gloriosa. Oggi tutta quella fantasmagoria straordinaria ha cessato di appassionarmi, di avvincermi e convincermi. Ho dei buoni motivi per non capirla come un fatto reale, per prescinderne. e quindi un po' paradossalmente mi riguardano di più la sorte degli agnelli massacrati che quella degli umani beati o dannati. Ma mi sento comunque di dire con certezza teologica che le centinaia di migliaia di agnelli allevati e uccisi per mangiarli a Pasqua non hanno nulla, proprio nulla, di un significato e di un valore religioso. Non sono una celebrazione, sono un'offesa mortale al mito di Gesù, al mito tragico, glorioso dell'Agnus Dei. Rientrano in una di quelle che io chiamo le cinque carneficine cristiane, come i tacchini di Thanksgiving, i capponi di Natale, i maiali di Capodanno e i pesci di tutti i 50 venerdì dell'anno. Per una coscienza etica evoluta, cioè ispirata alla non violenza, a Ahimsa, alla grande compassione, Mahakarunah, alla giustizia ontologica, è scandaloso che una religione sembri dare origine e legittimazione a queste carneficine, per di più gourmetizzate da ripugnanti riviste gastronomiche, che non nomino. La critica quindi è religiosa e umana. Religiosa. Se fossi Papa farei due cose. Uno, sconfesserei solennemente la spaventosa violenza sugli animali e sugli uomini tipica della tradizione biblica e cristiana. 2. Denuncerei l'enorme equivoco pasquale. Mangiare l'agnello gourmet non celebra, offende irreparabilmente il triplice Cristo nostra Pasqua, il Gesù crocifisso, il Gesù cibo eucaristico, il Gesù risorto della cristologia. Come uomo non papa dico, molto più semplicemente, mi dispiace per i profitti dei produttori di agnelli, ma credo che dobbiamo incoraggiarli, con la nostra motivata scelta non violenta, a produrre e uccidere delle cose vive meno dolorosamente coscienti e senzienti degli agnelli pasquali. Non sono Assange il suo gatto. Yannick Nezet-Séguin, direttore d'orchestra in ascesa e amante dei gatti insieme al suo partner, ha fatto una playlist dedicata ai felini di 326 brani di musica classica per un totale di 34 ore d'ascolti, scaricabili da Apple Music e Spotify. La scelta è stata fatta secondo il gradimento dei loro tre gatti che rispondono al nome di Rodolfo, Melisande e Rafa. Nell'aprile del 1981 esce Fate, il terzo album dei Cure, che ha suoni e testi sempre più dark. In questo lavoro è contenuto All Cats is Grey. Nel buio delle caverne tutti i gatti sono grigi. Godiamoci quindi questa botta d'allegria. Thank you. Parliamo sempre di animali, ma in una prospettiva artistica. Si chiama Caput Capitis, il progetto di Tiziana Pers, che è stato concepito come una sola mostra divisa in due parti presso gli spazi di Milano e Caserta. La ricerca artistica di Tiziana Pers si concentra sul biocentrismo ed opera attraverso l'analisi e la decostruzione del colonialismo, razzismo, sessismo, capitalismo, specismo e il dominio sulla natura. Sentiamo il servizio di Roberta Marino. Oggi ci troviamo nello spazio AA29 Project Room nella sede milanese. Sono in compagnia di Tiziana Pers, autrice della mostra Caput Capitis. Questa mostra rappresenta la prima parte di due mostre. Vedrà infatti il suo proseguimento il 3 maggio nella sede di Caserta della A29 Project Room. Il nome, spiegaci il nome intanto. Caput Capitis, dal latino capo di bestiame, è l'origine etimologica del termine capitalismo. Fondamentalmente l'oggettivazione del corpo dell'altro va a rappresentare la base del sistema capitalistico. Questo parlando dell'alterità assoluta, quindi quell'animale, ma anche non solo, perché possiamo tranquillamente riferirci anche allo sfruttamento del corpo dell'altro sia all'interno della specie umana che al di là dei confini di specie. Entrando appunto c'è l'impatto di questa quadreria pittorica, quindi l'impatto con un mezzo ancestrale anche. Fondamentalmente si tratta di una serie di ritratti animali, alcuni sono focalizzati sullo sguardo. Gli occhi molto ravvicinati all'interno contengono interi paesaggi, proprio perché l'altro porta all'interno di sé un mondo talmente vasto che a noi non è dato conoscerlo. Questi sono animali, mi dicevi, che voi avete salvato. Si tratta di animali che io ho salvato dal mattatoio o da varie situazioni mediante una pratica che si chiama Art History, un procedimento per il quale io scambio un animale destinato ad essere mangiato, ad essere ucciso, con un mio dipinto delle medesime dimensioni dell'animale che vado a salvare. Mentre poi nella seconda sala la pittura sparisce completamente lasciando spazio ad altri linguaggi. Abbiamo appunto un'infilata di contratti che rappresentano appunto ciascuno un cambio, se vogliamo, biografico di quello che doveva essere il destino segnato. Troviamo un video che è la testimonianza di una performance che avevo realizzato a Palermo per Manifesta. In questo video io propongo a un pescivendolo della Vuceria, quindi quello che era un po' il mercato storico di Palermo, tra l'altro Vuceria deriva da Boucherie, quindi da macelleria, gli propongo di scambiare alcuni animali vivi con dei dipinti. Formalizziamo questa cosa mediante dei contratti in maniera molto rapida e dopodiché corro per circa 3 chilometri per andare a liberare questi animali con dei secchi presso la baia di Sant'Erasmo. Ecco, questo non è un quadro, questa è una foto. Beh, sì, in fondo alla sala grande della mostra troviamo una foto che ritrae un gruppo di mucche. E al centro un animale sta fissando lo spettatore che si avvicina, mentre tutti gli altri corpi sono presenti ma allo stesso tempo è come se fossero assenti all'interno dell'immagine. Questa molteplicità di corpi ammassati all'interno di un allevamento che si contrappone allo sguardo dell'identità del singolo che ci sta guardando e ci sta in qualche modo responsabilizzando rispetto a questo che a quello che è il nostro comportamento nei suoi confronti e nei confronti di tutte le altre. La foto, il lavoro si chiama Madri, proprio perché ci ricorda questa maternità negata, perché a queste madri i figli sono stati chiaramente sottratti. E in quest'area troviamo un testo degli anni 20 del ventennio fascista. Parla di soccorsi d'urgenza al bestiame rurale e racconta di come sia necessario prendersi cura del bestiame in quanto rappresenta il capitale del singolo, ma anche rappresenta il capitale e quindi il potenziale di una nazione. Quindi si capisce come ci sia un filo conduttore unico che porti da quella che è la questione del dominio sull'animale a quelle che sono invece addirittura i totalitarismi. Tant'è che pensando anche proprio all'oggettivazione del corpo dell'altro, le prime catene di montaggio sono in realtà state delle catene di smontaggio, perché stiamo parlando delle Union Stockyards di Chicago, dalle quali poi Ford si è ispirato per realizzare le prime catene di montaggio. Quindi la prima catena di montaggio era una catena di smontaggio, cioè i corpi arrivavano vivi e uscivano in forma di prodotti. E la stessa cosa è stata fatta al contrario, appunto nella catena di montaggio, e poi da entrambe Hitler si è ispirato per i campi di sterminio. Uno appunto dei lavori portanti della mostra è proprio questa installazione, che è un parallelepipedo verticale di alluminio. Sulla parte superiore di questo parallelepipedo sono state serigrafate due pagine di questo libro, sottolineate da me, però nel momento in cui noi ci avviciniamo alla foto di fondo, a Madri, e poi ci giriamo per ritornare indietro, vediamo che all'interno di questo parallelepipedo sono contenuti dei ganci da macello che ho raccolto nel corso degli anni. Alcuni di questi risalgono addirittura appunto agli anni 20, al periodo del fascismo esattamente. La mostra qua rimarrà aperta fino al 26 aprile ed è visitabile il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14.30 alle 19.30. Chiudiamo la puntata con alcune good news. Dal sito della PETA tedesca arriva la notizia della chiusura dell'ultimo allevamento di animali da pelliccia in Germania. Dopo anni di battaglie, la fattoria di Raden non ucciderà più esseri viventi e così il paese raggiunge con largo anticipo l'obiettivo fissato inizialmente per il 2022. La fattoria a Raden ora è vuota e chiusa, scrive PETA, secondo cui l'allevamento è stato costretto alla decisione per via dei continui controlli e ispezioni a sorpresa, dopo le pressioni e le denunce degli animalisti che da oltre 20 anni si battono per porre fine al massacro degli animali destinati a diventare pellicce. E sempre a proposito di pellicce, il governo norvegese ha ufficializzato i dettagli del piano per vietare l'allevamento di animali da pellicce entro il 2025. La legge, presentata grazie a un accordo raggiunto nel 2018, renderà illegale dopo il 2025 possedere animali allo scopo di ucciderli per la vendita o qualsiasi altro uso della loro pelliccia.